Ignition Keys. Finalmente un po' d'acqua è diminuito anche il caldo per adesso, dai. Ok, lo so, aspetta che tengo il PMR, c'è gente dicendo che tirate il PMR. Vabbè, sì, bel caldo, un po' d'acqua ci vuole, ma però non deve fare di colpo così, magari piove, può piovere anche tutta la giornata. Faccio niente, spengo anche questo. Avevo due PMR accesi, stavo sperimentando. Stavo dicendo, quando piove, non deve piovere così di botto proprio. Deve piovere, sì, continuamente, però non così forte. Se no non va bene, almeno per le campagne, se no poi fa danno anche tra l'altro. Scusa Giù, cosa, l'ultima domanda che hai mai fatto, cos'era? Che è passata mamma un attimo? No, stavo dicendo che quando piove, aspetta che mi sistemo qua, sì, c'è solo, dovrei essere a posto, che quando piove non deve piovere così di colpo, così forte, deve magari piovere un'intera giornata, però sempre in maniera abbastanza regolare, senza stare lì a queste acquazioni così che fanno danno, soprattutto la campagna fa danno. Beh, certo, se è eccessivo è troppo in una volta, sì. Però qua, vabbè, dico a Sassari città, almeno ha lavato le strade, roba del genere. E, caspita, ieri siamo affacciati. Ho detto, guarda che sicuramente farà il rigagnolo a bordo strada, ma... mamma mi ha detto, altro che rigagnolo, guarda, c'è un bel... sembravano le cascatelle, no? C'è la via in pendenza. Da bambino impazzivo quando vedevo la strada così, perché facevo le barchette di carta, no? E lì le buttavo lì sulla strada e le vedevo scomparire all'orizzonte, capito? Beh sì, è una cosa che abbiamo fatto un po' tutti. No, io mi giocavo soprattutto nella barca da bagno, facevo le barchette, riempivo la barca da bagno di barchette di carta, e gli altri tempi che furono, sono passati tantissimi anni, almeno per me, che bei tempi da bambino, non avevi preoccupazioni, non avevi niente, stavi bene di salute, che problemi c'erano? Si giocava, si mangiava e si dormiva, boh, vabbè, si andava a scuola, questo sì, ma niente di particolare pure alla fine. Sì, la gioventù è bella perché te ne freghi di tutto, non c'è pensieri, ti senti eterno. Va bene, io poi sono alle soglie dei 50, alle soglie ancora no, ma siamo lì, se non sono 50 sono 49, mamma mia, quando ci penso, ma io, come ho visto il temporale sia ieri che oggi, ne ho stracciato tutto qua, staccato alimentatore, antenna, il computer lo stesso, staccato alimentatore, staccato il coso telefonico, non si aggrivi dal telefono, qualche scarica, eccetera, temo molto i fulmini. Beh certo, sì, no, ma io anch'io poc'anzi ho staccato l'antenna del barchino e anche l'alimentazione, ma adesso ho lasciato tutto attaccato, però generalmente io stacco tutto lo stesso, soprattutto durante la notte, stacco tutti i televisori, qua stacco tutto. Lascio solo attaccato il frigorifero perché quello non lo puoi staccare, ma per il resto stacco tutto. Anche perché a me, quando 3 anni fa, una cosa del genere, mi avevo fregato, proprio mi aveva rotto il router del computer, poi mi aveva rotto un alimentatore lineare 477 che avevo, che poi tra l'altro non lo usavo mai, però era inserito, era. Poi mi avevo bruciato 2 baracchini e anche un alimentatore, di colpo così. Però un giorno io qua non c'ero, ero a lavoro, per cui non ho potuto staccare niente. Quando sono rientrato, vado ad accendere, non accendeva più niente. Boh, tutto finito, l'alimentatore soprattutto, anche perché era collegato tutto sull'unico alimentatore che stavo utilizzando in quel periodo, capito? Va bene, comunque non mi ha detto niente, vuol dire che la radio mia sta andando bene, dai, ho capito. Così, anzi sono troppo leggero per essere anche con questa temperatura. Pantaloncini in cotone, maglietta di cotone, però un po' di freddo alle gambe ce l'ho. Poi questa è la camera più esposta, diciamo. Poi vabbè, qualcuna ha la mania di aprire tutto per così. È claustrofobica, dice. No, vabbè, per rieggiare lo fa un po', però poi entra anche il freddo. Infatti a una certa ora sarò tutto di prepotenza, d'ufficio. Ok, anch'io sono pantaloni corti e magliettina abbastanza leggera tra l'altro, ma freddo qui non ne sento, per cui sono stato bene tutto il giorno, anche perché stamattina mi sono stato abbastanza tardi, erano state le 11, perché stanotte non ho dormito in tutta la notte, ho iniziato a prendere sonno alle 7 del mattino, ti puoi immaginare, anche perché ieri avevo fatto la terapia, l'avevo fatto e dunque in un certo senso ero disturbato, avevo dei bruciori e dunque non ho potuto dormire tutta la notte. Perché ogni mezz'ora, tre quarti d'ora massimo, mi dovevo alzare perché avevo sempre lo stimolo per effetto della medicina che mi aveva iniettato. E dunque dovevo andare in bagno a urinare. Vabbè, comunque, adesso sembra passato. Adesso, alla prossima settimana, l'altro ciclo di nuovo. Ogni giovedì, insomma, non so per quante volte ancora, però almeno un minimo 3. Ieri ho iniziato la prima, dovrebbero essere altre 2 e poi si vedrà, non lo so. Insomma, un po' di manutenzione, tra virgolette, come la chiamo io. Io dovrei lo stesso iniziare a fare un ciclo di cose anche più delicate, solo che minimo devo andare a Cagliari. Il medico mi voleva mandare a Milano, ho detto ma stiamo scherzando, io al massimo vado a Cagliari a farle se lo fanno, e mi piglio il treno, non esiste che vada a Milano a fare, già a me non piace viaggiare, poi con questa storia del Covid e non Covid, meglio non spostarci troppo dal luogo di residenza, non sia che blocchino tutto di nuovo, tanto vedo che la gente se ne frega, perché ai bar sono tutti con la mascherina abbassata, tavolini pieni, e quindi premettendo che queste mascherine chirurgiche servono e non servono comunque, la gente se ne frega, dai. Continua a fregarsene, ma speriamo di non dover di nuovo fare una piccola chiusura, come la vuoi chiamare, lockdown, sempre i termini inglesi usano, perché siamo venduti degli americani. Uff. Anche quello poi, c'è da dire anche su quello, ma quando vai, per quale motivo, se io sono italiano, mi devi obbligare, perché in un certo senso significa obbligarti, essere obbligati a parlare l'inglese, non lo so io, comunque, vabbè, a parte quello, va bene così. Adesso spero di portare a termine questa situazione nel migliore dei modi. Fino a questo momento sembra che sta tutto andando bene, poi vedremo. Ma so che la terapia che sto facendo durava 36 mesi e adesso non so quanto tempo è passato, però diciamo che più o meno ne avrò ancora un anno, non lo so, suppongo, non lo so, saremo a vedere. E così è Marco, purtroppo la vita. Tu hai detto sei vicino alla cinquantina e io sono vicino all'ottantina invece, perché ne ho già compiuto 78, così che ti puoi immaginare e siamo già avanti con l'età. Vabbè, comunque speriamo di stare bene almeno fin quando si campa, poi vada come vada, cosa vuoi che ti dica, tanto non ci possiamo fare niente noi. No, purtroppo no, dobbiamo subire, adeguarci e tirare avanti se si riesce a tirare avanti. Ok, poi vedo che non c'era nessuno comunque in radio, un baracchino dico, avevo acceso per controllare stazionarie ma non ce n'è, sì, varia pochissimo, quando piove varia pochissimo, con la Ringo era che dava certe sberle di stazionarie quando pioveva. E comunque lì c'era un problema di impermeabilizzazione, siccome aveva quelle maledette fascette per fissare gli elementi dello stilo, no? Fascette, quindi sporgenti, come sono state impermeabilizzate col vulcanizzante, c'era mezzo millimetro scoperto, no? E praticamente l'acqua entrava da lì e quando l'ho messa giù l'antenna, proprio in quel punto si vedeva tutta una, aveva fatto una specie di poltiglia tra una specie di ossido di alluminio, ruggine della fascetta che era in acciaio tra virgolette inox, ma ruggine ne ha fatto, insomma tutto uno schifo di ossido e ruggine, per cui conduceva molto male l'antenna. E quella Ringo infatti un anno e poi l'ho buttata giù. Adesso addirittura deve arrivare da Media Globe, ne stavamo parlando ieri con chi? Con Bombolo mi pare, con Antonio Bombolo, di questa famosa Venom, no? Che è un po' simile a quella che ho io di antenna, 5 ottavi, anche se è corta, è 5,80 m, quindi c'è un po' più di bobina sotto. Però c'ha questi radialini da 40 centimetri, no? Beh, fatto sta che la trovi per una cinquantina di euro. No, Media Globe stupisce di nuovo. Sta arrivando la Media Globe 38 euro. La Sigma Eurocom Venom 5 ottavi, 38 euro, più la spedizione che sarà 8 euro. Però, caspita, al prezzo di una Ringo, al prezzo di una Ringo. Poi anche quella comunque è fatta molto in economia, Giulio, molto, molto, molto. Però avendo la bobina chiusa io confido che vada meglio della Ringo della Lemma. Poi anche lì, vabbè, gli hanno messo le fascette per gli elementi, per fissare gli elementi dello stilo, però se uno fa un lavoro genuino di impermeabilizzazione non deve entrare acqua, ecco tutto lì. Aspetta, 38 euro, c'era da acquistarla giusto per curiosità a me. Provare il terrazzo con quel supporto che ho io in metallo mobile, no? Col paletto da un metro. E poi usarla per usi futuri a costo di rivenderla o di installarla in altri QTH, eccetera. Ok, sì. Vabbè, dal momento che costa così poco, si potrebbe anche provare, uno si toglie la soddisfazione di comprarla e provare. No, io non cambierò più idea, io ormai ho la Game Master, mi tengo quella, è leggera, una cosa pulitissima, poco ingombrante, senza radiali, niente, funziona che è una meraviglia, anche se quando tiro vento si piega, ma si piega per modulare, non è che più di tanto, sia ben chiaro. Per cui all'altezza dove ce l'ho io va più che bene e sono convinto che non si rompe nella maniera più assoluta, anche perché dove ci sono gli elementi io ci ho messo un pezzo di tubo di quelli da elettricisti, di quelli di tubo rigido da elettricisti per impianti industriali, no? E dunque rinforza moltissimo dove ci sono tutte le giunzioni e dei vari elementi, per cui va benissimo. Premesso che ho sempre la mantova tubo, l'avevo tirata giù, pulita, messa a posto, è perfetta, nuova, nuova, nuova, ma nuova veramente, a differenza di tante persone che dicevano che la mantova tubo creava problemi. L'unico problema che creava era il fatto che non era cortocircuitata, però come funzionamento era sempre alla grande, andava molto ma molto bene, per cui non c'è niente da dire. A parte il fatto che costava 145 euro quando l'ho comprata io, poi oggi non lo so, ma quando l'ho comprata io costava così. Vabbè, la mantova costa ancora di più, cioè la Game Master costa ancora di più, 150-160, però devo dire che sono soddisfatto. Ce l'ho nel terrazzo, non ce l'ho nella posizione più alta della casa perché non mi sembra il caso, visto e considerato che mi sentono dappertutto, anche quando vado in DX mi sento egregiamente, a livello di certe stazioni, tipo che so io, quelli della parte alta di Sassari, come dove abita ad esempio Roberto, Quadrato, eccetera, tant'è vero abbiamo avuto modo di fare DX in concomitanza e il segnale che dava a lui dava a me, per cui non è vero la ragione per cui mi devo preoccupare di spostarla e metterla magari dove c'era prima la mantova tubo, che era 6 metri più in alto rispetto a dove c'è adesso la Game Master. No, non cambio più idea, nella maniera più assoluta. Anzi, se qualsiasi che un giorno mi salta in mente, me ne disco anche della mantova tubo, tanto non saprei nemmeno che cosa farmene, visto e considerato che non la piazzerò mai più. Assolutamente no, non ne vedo la ragione per cui la dovrei piazzare. Capito Marco? Mi dispiace perché è nuova l'antenna, ma se c'è qualcuno che se la merita e che ha qualche soldino in tasca, se la vuole gliela posso anche dare. Vai Marco. Sì. Bene, sto guardando adesso. Sigma Eurocom Venom 5 ottavi d'onda, disponibilità in arrivo, gli sta per arrivare, 38 euro, è il prezzo più basso in assoluto che abbia mai visto, perché persino Elettrocip di Napoli, no scusami, non Elettrocip, 1000 volt, negozio 1000volt.it di Napoli dintorni, la vendeva a 45 o 47, l'ha abbassata a 42 euro, mi pare. E qua 38 euro, incredibile, incredibile. Vabbè. Purtroppo nessuno a Sassari l'ha provata con l'antenna lì, almeno a capire se è al pari di questa, solo che questa è un po' più curata, la Energy, alias Sirio GPS o GPE, non mi ricordo, è leggermente più curata, quella proprio è ancora più spartana nei materiali. Poi girava voce che ci fossero varie versioni della 5 ottavi di questa Eurocom, no? Di questa Venom, scusa. E qualcuno aveva una normale bobina all'interno, no? E un'altra aveva una specie, scritto proprio così da chi l'ha scritto, di adattatore di impedenza, come se fosse una specie di mezzo balun interno, una cosa ambigua. Io preferirei la volgare bobina. Poi c'ha questi radialetti che sono talmente corti che non danno fastidio, persino uno che è a ridosso di qualche muretto la potrebbe mettere bassa e non darebbero fastidio, almeno molto molto meno dei miei che sono 1,30 m ciascuno i radiali. Buonasera, ma guarda a me, c'è un'antenna di gomma, io arrivo da tutte le parti, ma cosa ne fai dell'antenna? Guarda un'antenna di gomma come la mia. mia, va bene. La bazooka magari, uia, altro cantone di gomma. E tu c'hai una posizione invidiabile, Claudio. Porca miseria, è veramente invidiabile come posizione. Mi sono in compagnia di Giulio. Stavamo accennando a questa antenna che purtroppo a Sassari nessuno ha avuto modo di provare da poco. È in arrivo da Media Globe la Venom a 38 euro, questa 5 ottavi che è la stessa che deve montare Cosomi, Master, Fabio Master. Ehi, Marco, ci ho bucato tutto, ma ti ha detto Giulio, altro che piazza nera, si antenne, ancora a noi. Buonasera, buonasera, mi 5 minuti, il tempo di prepararmi perché ho visto che non sta piovendo, così mi sistemo il cagnone. Ciao, Marco Giù. Ciao, Claudio. E infatti, cosa sto lì a... Io ripeto, questa avevo provato per scherzo prima quando avevo autocostruita sempre la canna da pesca, e poi invece ho avuto la fortuna che me l'ha restituita io le porte, per cui adesso c'è l'originale, ma sono convintissimo, non la cambierò mai più, perché va benissimo, poco ingombrante, leggera, a portata di mano, perché sono nel terrazzino, sollevo il braccio e sta col piede volendo, per cui non ne vedo la ragione perché dovrei metterla. Intanto dov'era prima la Mantova Tubo, che la notte quando c'era vento fischiava, che sembrava l'orchestra sinfonica, sembrava durante la notte, per carità, fastidiosissima. Ultima antenna, tutto quello che vuoi, perfetta, andava benissimo, a parte il discorso che qualche volta perdeva l'auto, il fatto della corrente elettrostatica, però come funzionamento di antenna era eccezionale, funzionava bene, però questa non mi ha assolutamente deluso, e suppongo che vada bene quanto la Mantova Tubo, soprattutto se la metto nella posizione dove c'era la Mantova Tubo, appunto. La Green Master per me è ottima antenna, perfetta, tranquilla, è appena 2 metri superiore al tetto qua, mentre invece l'altra prima era roba di 6 o 7 metri oltre il tetto, e soprattutto montata nella parte alta della casa, che significa di altro paio di metri ancora, perché vista che c'è tutta la pendenza del tetto pure. Vabbè, comunque andava bene, va bene così. E poi per quello che vale ormai, non va più nessuno per questa, ieri, avanti ieri, tutti quanti in stand-by erano. Io ho provato a accendere ma non c'era nessuno, e allora cosa potevo fare? Nulla. Ho preso, ho spento tutto, mi sono guardato al giorno, mi sono acceso il computer, ho passato un'oretta al computer e poi la televisione e così via. E andavo così, va bene, dai. Avanti Marco. Ma Marco e Fornelli, io ieri sono entrato una mezz'oretta con Gianfranco, stavamo appunto settando questa radio 950, ci ho messo l'altro microfono di nuovo al 60, perché mi sembra più bella la modulazione, mi sembra più bella. E niente, mi ha fatto togliere quel dispositivo che praticamente se fai passaggi lunghi ti blocca, siamo riusciti a toglierlo, e poi è entrato Marco lo stesso, 2 chiacchiere abbiamo fatto, ma traffico ce n'è ben poco, c'è un po' più di traffico in PMR di nuovo, la solita graffettina, già va bene, l'importante è fare radio, l'importante è far sapere che ci siamo, Giulio, ci rabbiglia in luce. Purtroppo con le tecnologie che ci sono adesso la radio sta passando in secondo ordine, capito? Tutto qua. Va bene, dai. Io mi preparo giù, che sono le 7.25, così porto il cane prima che piova. Siamo già piovigginando di nuovo, dai. Ok, d'accordo, buona passeggiata allora con Filippo. Porta l'ombrello anche per Filippo, Va bene, ci sentiamo eventualmente. Marco, sei rientrato? Cazzo, sta di nuovo piovendo, ma dimmi tu. Ah, c'è un bel casino a portare questo cane. Appunto, per quello che ti sto dicendo, porta l'ombrello anche per Filippo. purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? Quanto sembra piove anche domani, staremo a vedere com'è, come si comporta. Però ho visto strano, stamattina non era poi così male, poi alla sera è cominciato ad oscurarsi la giornata e poi è arrivato anche il temporale, perché quello era temporale, qui tuoni a gogo, infatti avevo staccato l'antenna qua e anche l'alimentazione, ma niente di particolare. Poi per il resto me ne sono fregato, perché di solito quando c'è questo temporale io stacco tutti i televisori, perché io ho 5 televisori piazzati qua per ogni piano, dunque devo staccare tutto. E vabbè, comunque andiamo, dai, cosa ci vuoi fare, ci sentiamo. Avanti Marco, sei rientrato o stai pranzando? Ci sentiamo dopo Giulio, dai, a dopo. Marco, riprendi. Eia, già fatto Giulio. Stavo guardando il meteo.it. Domani temporali no, però al limite, dice, precipitazioni modeste verso le 5 di sera. Seppure, però niente di che, per il resto non come oggi e non come ieri. Qua prevede una giornata migliore, poi vai a vedere 10 meteo diversi e ti dicono 10 cose differenti, quello vabbè, pazienza. Domani vado a fare anche un po' di spesa, faccio un giretto, eccetera, eccetera, dai, va bene Claudio. E quindi sì, vabbè Giulio, conta una cosa anche che tra oggi e ieri, cioè io come vedo, come sento tuoni, stacco tutto qua, alimentatori, non ho molta paura dei fulmini. Perché tanto anche se non cade proprio nelle immediate vicinanze, cioè anche 100 metri, anche 200 metri, secondo me fa danno. Perché è una cosa terrificante il fulmine. E quindi così dai, sto perdendo quota anche me. Lo so, anche a distanza fa danno, sì, dato che si sta qualche annetto fa qui in zona a 200 metri in linea d'aria da dove abito io, è arrivato un fulmine, è arrivato addirittura, ha incendiato anche l'ingresso del gas che c'è, dunque sono dovuti intervenire i pompieri per spegnere, aveva fatto un danno del diavolo, quei punti, chi è che non ha subito danni? Un po' tutti, frigoriferi, televisori erano partiti, gruppi elettrogeni, ad esempio la pasticceria che c'è qui vicino a me, il gruppo elettrogeno, il compressore d'aria, il meccanico a 800 metri da dove sono io e da dove era successo il problema, insomma aveva fatto un disastro enorme. In effetti è vero, non è che qualche seccare a distanza è molto, ma molto pericoloso. Lo so, purtroppo non ci si può fare niente quando succedono certe calamità così. E vabbè, comunque, speriamo che non succederà mai, o perlomeno che non faccia danno più di tanto. E così è Marco, e cosa ci vuoi fare? Io devo dire, ero intenzionato a comprarmi un baracchino nuovo, ad esempio, perché mi è sempre piaciuto il Superstar, mi è sempre piaciuto, però tutto sommato ho fatto, ma chi me lo può fare a spendere intorno ai 200 euro, visto e considerato che non c'è più nessuno che frequenta, la gente entra così una volta ogni tanto, tu che posso fare alcuni nuovi, tanto per fare un esempio, Roberto non è più entrato da quando ha incominciato, da quando è finito il lockdown, Robertino non è più entrato, lo stesso Claudio entra poco e ha ragione per i motivi che noi sappiamo, l'amico Massimiliano lo stesso non è entrato, anche lui probabilmente sta lavorando, non lo so, insomma è tornato, Giuseppe è tornato, non si è più sentito e tanti altri, dunque e poi a fin fine quello di Muros, come si chiama, vabbè, quel Claudio di Muros non è entrato più nemmeno lui, Sì, ma erano venuti fuori come vengono fuori le mosche al miele, finita quel periodo, boh, tutti spariti, e siamo ritornati a quei quattro gatti che siamo rimasti in frequenza o manco, e con poca voglia anche, tra l'altro, c'è da aggiungere. Vabbè, dai, riprendi. E un po' anche dispersi tra due canali diversi, o dispersi anche un po' in PMR, cioè non c'è più il canale come poteva essere 10 anni fa, che bene o male eravamo tutti sul 5, ti ricordi che lo usavamo come canale di chiamata, poi ci siamo spostati sul 10 per lasciarlo libero ai camionisti, poi invece i camionisti sono spariti per conto loro perché sono tutti con l'applicazione CBTalk, meno rischi per loro, più comodità, parli da una parte all'altra del mondo, dal polo nord al polo sud parli con quello, incredibile, guarda, senza rischi di lineari, di sanzioni verbali, di denunce. Sì, infatti anche quello influisce molto, ma la cosa che più mi un certo fastidio mi dà, ecco, visto considerato che ormai la 27 è ai minimi termini, non è vero la regione per quale motivo non debbano abbassare anche i prezzi, anche per cercare di invogliare la gente ad acquistare queste apparecchiature, tutte queste apparecchiature che ci sono in vendita, che ci sono milioni e milioni di prodotti grafica invenduti, ma nonostante tutto non abbassano i prezzi sono sempre abbastanza alti, soprattutto anche a livello di antenna, vedi la Game Master, addirittura ho visto in un sito la Game Master che la vendevano 200 e qualche errutti, 200 euro errutti, la Game Master, a differenza di altri siti che ce ne sono anche 170, 180, 160, qualcuno 150 anche, il più a buon prezzo di tutti, ma per dire no, sono prodotti che ormai stanno andando praticamente in manovra come tipo di apparecchiature e di antenne varie, nonostante tutte non abbassano i prezzi, sono sempre elevatissimi. È vergognoso veramente, guarda, è veramente vergognoso. Marco, non capisco la ragione per cui non si debba adeguare ai tempi. Io so che quando il lavoro incomincia a calare uno fa di tutto per cercare di risollevarlo, e il modo migliore per risollevare una certa attività è quella di abbassare i prezzi, ma qua invece no, niente da fare, sono ostinati e continuano sempre cari. Purtroppo qua non nessuno abbassa prezzi, qua vendono oppure alla fine, non so che fine fa la roba invenduta. Per esempio quando chiude un negozio sarà costretto a svendere, a dare tutto alla stragiudiziaria se fallisce, che ne so io. A questo proposito volevo dire, allora, sempre Media Globe si distingue. Media Globe, la Game Master 5 ottavi, no, quella lunga, 145 euro, più la spedizione naturalmente, è uno dei prezzi più bassi. Allora, Media Globe su antenne, su portatili, su baracchini, su apparecchi HF è quella che ha i prezzi migliori in assoluto. Adesso ti faccio un paragone terra a terra, se tu vai a comprare lo stesso oggetto che so io da Am Radio Shop, guarda di quanto ti ricaricano, cioè, costa molto ma molto di più. È abbastanza caro Am Radio Shop, caspita, nemmeno i vecchi negozi, IEL Elettronica era così caro. Sì, l'ho notato anch'io queste differenze, in effetti. Il negozio più a portata di mano per quanto riguarda il prezzo è proprio quello. E vabbè, comunque. Sì, al shop, quello lì è uno dei negozi più cari che c'è, lo so. Invece Media Globe è uno dei meno costosi, dai, tutto quello che ha. Comunque, però sono sempre prezzi molto alti, no? non è bella la ragione, cosa se ne faranno poi di tutte queste cose qua, di tutte queste apparecchiature che rimangono invendute, perché rimangono invendute, soprattutto da quando è venuto fuori quello Cibitocca. Almeno prima c'erano, se non altro, i camionisti che compravano, si attrezzavano per il camion, eccetera, quando viaggiavano. Invece oggi sono tutti quanti con questo accidente del telefonino. Al massimo comprano questo microfono che costa 120 euro, una cosa del genere, eccetera, ma niente di più, e parlano tra l'altro in tutto il mondo. E purtroppo è così. Io sono mesi che non ho più sentito un camionista qui in Sardegna, qui a Sassari, sono mesi e mesi che non ho sentito più un camionista. Ma cosa sono? Tutti spariti sono, tutti quanti in cassa integrazione, tutti quanti a riposo, non stanno più lavorando, o cosa hanno fatto? Per non sentirli più, o parlano fra di loro al telefono, sempre rispetto alla Cibitalk, non lo so, ma prima era una... c'era da stare sempre su chi va là, perché ogni tanto te ne entrava uno, te ne entrava e faceva casino anche, tra l'altro. Oh, di là è per noi che siamo appena rimasti in pochi, forse tutto sommato è anche meglio che non ci sia tutto questo affollamento, eccetera, però non c'è più quell'armonia di una volta. Prima c'erano varie persone, magari si parlava, soprattutto c'erano tante donne e si discuteva del più e del meno, ma oggi invece tutto silenzio, non c'è più niente, per giornate intere. Ecco. Mando avanti il break, subito, avanti. Ciao Marco, ciao anche a due, buonasera. Franco California, sì, ben sentito. C'è solo Giulio, c'era Claudio, non so se è già uscito, vediamo se è ancora l'ascolto. Claudio? Ciao Franco, no, Claudio è andato a portare il cane, magari rientra a poco 10 minuti. Ciao Franco, e allora come va? La pioggia ti è piaciuta a te? Ah, fa Giulio, buonasera a tutti, buonasera anche agli amici che sono nell'ascolto. Ma sono in campagna, Giulio, io. Sì, io ho già tenuto parecchio, ma sono sceso in campagna, a vedere, a fare un po' di domande, ma... Dove in me? Non ce n'è, lo so, purtroppo. Purtroppo è così anche in quello, tutto è sparito. Prima c'erano tante di quelle lumache, grazie che a vista d'occhio dove passavi addirittura le schiacciavi, perché te li trovavi sotto le scarpe. Oggi anche quelle sono sparite. Tanto è vero, pure hanno messo delle regole, soprattutto nei territori lì di Usi, in quella zona lì. Non puoi cercare lumache, perlomeno questo avevo sentito, lumache, lumacuni, eccetera, eccetera. Perché ci sono delle regole, che poi non le ho capite esattamente come questa storia. Ma io li compro sempre, non saranno nelle migliori, ma io li compro sempre in quella rivendita che c'è in via Pascoli, vicino all'edicola, c'è quella rivendita di verdure, eccetera. Io li compro lì sempre, i lumaconi, non le lumache ne compro poco e niente, ma i lumaconi li compro molto spesso lì, costano anche poco, e quando le compro 2-3 kg e va bene. E devo dire che sono buoni, poi se dipende dal fatto come le cucina mia moglie, ok, non lo so, so solo che sono buoni. Avanti Fra. E si conferma giù, più che altro diciamo che sono lumache coltivate, ma già vanno bene lo stesso. Volevo dire, mi state ascoltando bene, sì. Io ti ascolto sempre come al solito, benissimo. La radio ultra potente, bella, chiara, pulita. E suppongo anche Marco, avanti Marco. Sì. Il segnale mi pare che sia tra 8 e mezzo e 9, come le altre volte. Vieni avanti. Capo, vado lì, sono in campagna e non sono a casa e sto andando con un'altra apparecchio adesso. Sì, tra 8 e mezzo e 9, esatto. Picchi leggermente positivi. Comunque Giulio, adesso per screditare quello che ho detto prima, la stessa antenna Game Master 5 ottavi, Amma Radio Shop la dà 150 euro, 5 euro in meno, cioè 5 euro in più solo, rispetto a Media Globe. Probabilmente su certe cose si sono un po' regolati per certi prezzi. Però io mi ricordo che un baracchino presidente uscito recentemente, che Media Globe vendeva a 2,19, da Am Radio Shop era tipo 2,60, una cosa del genere, cioè, c'era una roba di 50 euro di differenza. Adesso non mi ricordo il prezzo, adesso lo cerco, vediamo se ce l'hanno ancora. Cioè 50 euro di differenza tra un venditore e l'altro è un'enormità comunque. Beh certo, te lo sto dicendo, ti ho detto poc'anzi che nonostante il poco affollamento che c'è più ormai in questa frequenza, i prezzi sono esagerati, ma esagerati veramente. E dunque sono evidentemente o sono poco attenti questi commercianti, ma si saranno resi conto che non vendono più come una volta. Io sono più che convinto che non possono vendere più come una volta. Prima c'erano tante di quelle persone che usavano il baracchino e non finivano mai, e non compravano solo il baracchino, e antenne, cavi, tutta benvenuteria come PL, banane, tutte queste cose qua che noi usiamo, abbiamo sempre usato per la stazione radio. Per cui oggi invece i prezzi sono sempre altissimi e loro non abbassano i prezzi, e allora se li tengono le apparecchiature, se li tengono. È così, avanti qua. E si conferma, anche perché diciamo di queste cose non c'è più mercato, giuro, come una volta. La 27 è poca gente, quindi la pubblica anche di meno, capito? Appunto, non capisco come mai non abbassino i prezzi, quello che non riesco a concepire, perché non è solamente qua in Sardegna che c'è.